ostacoli, da dover poi togliere di mezzo. Particella senza miracoli, diversa allo stato grezzo. Riconosciuta maledetta da chi per storia dovrebbe dare conforto. Una volta fatta la scoperta in memoria del nostro mondo storto, è corto il senso che tutti hanno in testa, è superficiale. Natura che ha generato per gli altri una cosa da buttare in una spazzatura che dovrebbe accomunare tutti. Ma nel tuo caso si differenzia perché con un compare del rifiuto non vuole stare esteso. Il loro polpastro è l'indirizzato minaccioso verso di te innocente. Anima generosa che di tutto il suo triste percorso non si pente. Ora incurante delle concezioni che viaggiano in queste teste lente. Sei cresciuto come un fiore che ha avuto bisogno delle parole della brava gente. Come dirlo a chi ti ha cresciuto, a chi ti ha tenuto per anni in braccio, in uno stato non voluto ma compiuto, tua maschera triste col sorriso di un pagliaccio. Scappi dal tuo mondo chiuso perché sembravi chiuso in una gabbia di ghiaccio. È un mondo uguale al contrario, ovvero uguale al vostro, al nostro. Mi schiero dalla parte del mostro che almeno qualcosa la imparo. Non me ne frega nulla, io sparo contro chi è serio, chi dice che è vero, che sono malati. Voi siete sbagliati, loro sono colpevoli di amare, di essere amati. Per questo hai perso, amavi un altro, per questo dicono che sei diverso. No, sei sempre lo stesso, sei nero. Gocce di sangue se ti muovi, occhi di altri che sembravano dei rovi. Ma tu non farci caso, sleghi i tuoi nodi. Sorrisi falsi in faccia e dietro scoccano frecce impregnate negli odi. Adesso ti trovi da solo, immerso nel buio di un'autostrada. Giudizi con violenza sul tuo corpo straziato, dentro dalla solitudine, fuori dai pugni che ti hanno sferrato. Cittadini del mondo dicono tutti, ma tu non sei stato considerato schiavo del ruolo che le persone vuote ti hanno assegnato. E nelle notti insonni viene in mente la consapevolezza che sei così sinonimo cattivo di altra gente. Ma l'altra gente è qui, tiene un filo che si estende teso tra la comprensione e l'odio profondo, con la speranza comune e malvagia che ci sia solo tu nel mondo. Da solo immerso nel buio di un'autostrada, tra la mia tristezza e una natura per voi malata. Da solo immerso nel buio di un'autostrada, tra la mia tristezza e una natura per voi malata. Dio vi giudica anche se non credete. Cari fedeli, non si trattano in modo uguale i diversi.